ritorniamo in onda per quello che è l'ultimo approfondimento redazionale di oggi, un approfondimento ancora per parlare di questo Festival delle Culture Antifasciste di Bologna che si va ad aprire, credo domani proprio. Domani, sì. Domani, festival di cui abbiamo già parlato più volte, ma che diciamo per la sua grandezza, per la sua ricchezza di contenuti e di iniziative, insomma, merita sicuramente qualche trasmissione, ecco. Noi oggi siamo con un'altra voce ormai notissima, questa di questa radio, una delle conduttrici di Sulla Breccia dell'Onda, una trasmissione che viene onda ogni mercoledì alle 20. E 15. 20 e 15 e che sarà presente fra le relatrici appunto a Bologna. Molti sono gli argomenti, molte sono le questioni che verranno trattate a Bologna. L'antifascismo è giustamente stato affrontato a 360 gradi e noi oggi con te volevamo fare un po' il punto specifico per quel che concerne le iniziative relative a quello che è la questione del sessismo, le questioni di genere, che insomma vengono affrontate parecchio nel corso di questo festival, e già questo di per sé è un dato positivo a priori. Ecco, noi ti vorremmo chiedere intanto un po' una panoramica su quello di cui si parlerà ai vari tavoli e poi come è stata l'organizzazione da parte vostra. Sì, questa questione appunto del sessismo e quindi di porre l'antisessismo come diciamo una delle gambe ineliminabili per una lotta antifascista mi sembra fondamentale insomma nella lettura di questo festival e non soltanto nella proposta di tavoli, assemblee, dibattiti, presentazioni di libri eccetera, ma a me la cosa che è sembrata più interessante è stato il fatto che questo tema è stato posto in maniera forte e condivisa anche nell'organizzazione del festival. Cioè io personalmente non ho partecipato ovviamente alle assemblee organizzative, ma insomma altri compagni e compagne di Facciamo Breccia ci stanno partecipando dall'inizio e è risultato diciamo una sensibilità condivisa quella di porsi il problema che il luogo del festival sia un luogo antisessista, dove cioè tutti e tutte possano esprimersi con tranquillità e agio senza che ci siano, a parte brutti episodi che purtroppo insomma in altri contesti sono successi, ma anche comunque un atteggiamento che non tenga conto della differenza di genere e dell'antisessismo come qualcosa che deve essere diciamo nel DNA politico di chi si pone nella lotta antifascista. Tanto che per esempio è stato anche organizzato un servizio che è stato chiamato di tranquillità, gestito sia da uomini che da donne, da trans eccetera, che si sono volute chiamare lucciole e che cercheranno insomma di comunicare questa sensibilità che è stata condivisa tra chi ha organizzato il festival anche ovviamente a tutte le compagne e compagni che saranno presenti a Bologna in questi 5 giorni o in alcuni di questi 5 giorni, perché ovviamente soprattutto per chi andrà da Roma magari insomma la partenza avverrà per molte e molti dopo le mobilitazioni di Ponte Galeria e contro il G8 sull'immigrazione. Questo a me sembra un fatto molto importante insomma, perché cambia in qualche modo il modo di porsi davanti a ciò rispetto a chi magari mette, non so, 2 dibattiti, però poi non la coscienza è tranquilla. E la coscienza è tranquilla. Anche perché io credo che insomma la scommessa più grossa di un festival così ampio e così sfaccettato sia proprio quello di essere un luogo di contaminazioni tra punti di vista, tra gruppi, tra specificità politiche. Perché l'antifascismo, appunto, è molto ampio come tematica, spesso esiste. Esistono appunto diciamo posizionamenti politici da cui si inizia per la lotta antifascista. Questo festival mi sembra l'occasione per farli incontrare questi punti di vista che non così spesso si incontrano per la verità insomma nella quotidianità delle nostre lotte. L'altro punto sul festival in generale, dico, che a me sembra particolarmente interessante, è che appunto sì, questo è un festival sociale delle culture antifasciste e quindi quello che si vuole mettere al centro è proprio la riflessione, l'approfondimento, il dibattito e almeno insomma in fase organizzativa questa cosa direi che è del tutto riuscita, nel senso che la mole di proposte, di riflessione che insomma vengono allestite nel festival è veramente impressionante. Insomma, ne ricordiamo pochi, ecco. No, ma è così, ci ha impressionato anche a noi, perché voglio dire una pluralità di, intanto una pluralità di realtà che hanno dato vita al festival e poi cioè, anche proprio praticamente la presenza massiccia di una sì, serie immensa di tavoli, di dibattiti, ecco, erano anni che non ce la ricordavamo una cosa del genere. Non si sente più, rialza il pirolino. Una pluralità di, diciamo, in chi ha voluto far nascere questo festival, che insomma, anche questo credo sia un fatto da sottolineare, che vanno da tutte le realtà dell'auto-organizzazione di Bologna, quindi centri sociali autogestiti, quindi vari movimenti femminista, LGBT, per l'ambiente, eccetera, eccetera, e anche altre sigle, diciamo, anche più. Sto toccando, ecco, credo che a seconda benissimo. Di come muovo il microfono. Dovrei stare ferma così in questa posizione. Dai. Sì, cercherò di stare fermissima, cosa non mi riesce quasi per niente. Comunque dicevo appunto c'è anche in mezzo nell'organizzazione l'AMPI, l'Associazione Nazionale Combattente Reduci, eccetera, eccetera. Diciamo che anche questo significa insomma cercare di mettere insieme dei punti di vista e delle pratiche anche antifasciste molto diverse per generazioni, per pratica appunto, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda poi, appunto, è difficile fare una panoramica sulla totalità di quello che si va a presentare, perché le tematiche sono veramente molte, insomma, vanno da ambiente e territorio, antiproibizionismo, crisi economica, poi quello delle soggettività, donne, LGBT, migranti, il tema ovviamente del revisionismo, dei neofascismi intesi anche con le loro, diciamo, declinazioni sui territori. Molti sono gli incontri previsti in vari tavoli dove verranno portate esperienze specifiche insomma di territori dove il neofascismo e la lotta antifascista si è sviluppata in modalità e in momenti diversi, non so, da Palermo a Roma, a Verona, eccetera, insomma. La scuola anche per esempio è uno dei temi che viene affrontato, insomma ci sono vari incontri che cercano appunto, mi sembra che questo festival alla fine cerchi di coniugare da una parte il tema appunto culturale che siamo abituati a immaginare come più propriamente detto, insomma quello della memoria del regime fascista e quindi poi dell'antifascismo, con una memoria più recente, perché ovviamente si parlerà anche dello stragismo di fine nero di fine anni 70 e inizio anni 80, si parlerà della Uno Bianca, si parlerà quindi anche di una serie di, insomma, di una memoria storica che è anche declinata negli anni, che non si ferma ovviamente al 45. E dall'altra appunto invece una concezione più movimentista, più presente, più calata nella lotta quotidiana di cos'è l'antifascismo. E ci saranno anche fra l'altro varie forme con cui ci troveremo a riflettere su queste tematiche, perché oltre ai tavoli, ai dibattiti, all'assemblea c'è anche una vastissima gamma, diciamo, culturale e artistica, insomma dagli spettacoli teatrali ai film, alle presentazioni di libri, e questo appunto è un altro programma molto molto denso. Il tutto si svolge al Parco delle Caserme Rosse di Bologna, che come ricorda il Deplan stesso, che insomma, è stato predisposto dai compagni e dalle compagne, è un luogo che ha una sua importanza storica molto specifica per la città di Bologna, perché è stato un centro di detenzione, smistamento, eliminazione del nazifascismo nel 44, che poi è stato restituito, diciamo, alla città come parco, e dove appunto compagni e compagne stanno da giorni allestendo palchi, tendoni e tutto, cucina, bar, tutto quello che servirà per poter stare il campeggio stesso, insomma, per chi viene da fuori. Per quanto riguarda, diciamo, in particolare quella parte di programmazione a cui anche Facciamo Breccia ha contribuito insieme a una serie di collettivi e gruppi lesbici, gay e trans, abbiamo cercato, insomma, di costruire un programma che non rimanesse come un tavolo a sé stante, ma che cercasse in qualche modo appunto il confronto e la connessione con altri movimenti. Il programma quindi si dipana per tutte e cinque le giornate, e diciamo la riflessione di quello che è stato chiamato appunto tavolo LGBT partirà poi da in qualche modo una riflessione che è già stata elaborata nell'ottobre scorso, quando sempre come Facciamo Breccia abbiamo organizzato a Bologna una 3 giorni contro la repressione e il ridisciplinamento dei corpi, dove ovviamente di fascismo, antifascismo e antisessismo abbiamo parlato molto, e vorremmo ripartire da lì per, insomma, cercare di avere una continuità nella riflessione e un allargamento continuo a altri punti di vista, partendo da lì poi anche in una sessione appunto del tavolo LGBT, in particolare quella del 1 giugno, cercheremo di dar voce alle lotte lesbiche, gay e trans che si sono articolate in questi anni sui territori e che hanno fatto da punto di riferimento per la lotta antifascista presa appunto dal punto di vista LGBT, e cioè l'esperienza del Circolo Pink a Verona, di cui abbiamo parlato molto, insomma, da questi microfoni, l'esperienza del Circolo Open Mind a Catania. Anche questo ai noi, cioè, noi ne abbiamo dovuto parlare per ampiamente, perché insomma sono città dove la lotta antifascista ha una quotidianità necessaria, ovviamente. La stessa cosa per il MOS, il Movimento Omosessuale Sardo di Sassa. Un'esperienza più recente che è stata quella di Universi Inversi di Trento, che si è necessariamente dovuta misurare con la pratica e la riflessione antifascista, e anche con partecipare, insomma, a questo tavolo anche il collettivo Male Femmine di Palermo, che è un collettivo femminista che appunto porterà anche la propria esperienza appunto di un antifascismo antisessista che si confronta con la lotta contro la mafia, eccetera, eccetera. Oltre, diciamo, appunto al tavolo propriamente detto, che avrà anche, diciamo, delle sue parti, delle sue sessioni anche fattive, creative, in cui si cercherà, insomma, di misurarsi insieme su quali possono essere le pratiche di lotta in strada, in piazza, che cercano anche di utilizzare, insomma, degli immaginari differenti rispetto a immaginari macisti che a volte si rischiano nella lotta antifascista. E oltre a questo, appunto, abbiamo cercato di inserire altri incontri che potessero, insomma, mettere a punto delle tematiche a nostro avviso fondamentali in un festival come questo. Uno è Comunione e Segregazione, contributi per una lettura delle alleanze clerico-fasciste, che vorrebbe essere in qualche modo la continuazione di un tavolo che ha avuto lo stesso titolo e che si è tenuto nella 3 giorni che fu organizzata qui a Roma dalla RAM alla SNIA, dove appunto si discuteva di questo, cioè delle connessioni tra clericalismo e fascismo, e anche questa volta ne parleremo da vari punti di vista, insomma, cercando di allargare lo sguardo, di non tenerlo solo puntato sull'Italia, con un intervento sul ruolo della Chiesa Cattolica nelle dittature latinoamericane. Si parlerà della Chiesa Cattolica durante gli anni del nazifascismo, e poi anche però del sessismo e del fascismo vaticani, in specifico, insomma, nell'era Ratzinger, diciamo, che hanno acquistato delle connotazioni sue proprie molto evidenti. Porteremo anche la tematica della prostituzione dei e delle sex worker, perché non vogliamo, insomma, purtroppo ci troviamo davanti a una realtà che ci costringe quotidianamente a un riproporsi continuo di nefandezze di ogni tipo sui nostri corpi, sulle nostre vite, eccetera, ma non ci sembra importante non dimenticare, insomma, l'attacco vergognoso che hanno subito le donne, le trans che si prostituiscono in questo paese ormai pochi mesi fa, in realtà, e a quel nuovo revival, diciamo, del concetto di decoro, un perbenismo in nome del quale proprio i peggiori crimini vengono perpetrati, certo. e il peggior e più retrivo razzismo poi di fatto viene perpetrato, perché di questo si parla ovviamente quando si parla di prostitute in strada. Oltre a questo, un altro elemento insomma per noi importante è quello della presentazione di un libro che è Femminicidio di Barbara Spinelli, dove si parlerà del tema della violenza di genere, della violenza maschile sulle donne, che come sappiamo insomma maggior causa di morte per le donne tra i 15 e i 60 anni, insomma l'80% delle violenze che vengono commesse in famiglia, eccetera, eccetera, e anche questo ci sembra che sia un contributo necessario ed essenziale da tanti punti di vista, anche per smantellare questo paradigma razzista che è stato ad arte costruito nel nostro paese, additando insomma la violenza uguale straniero, e quando insomma questo proprio i dati lo negano nella maniera più assoluta. Ci saranno anche tutta una serie appunto di spettacoli proposti da noi. Uno per esempio è un recital per voce narrante che è tratto dal libro Cara senatrice Merlin, Lettere dalle case chiuse, per prendere anche da questo punto di vista insomma meno cattedratico insomma il tema della prostituzione, e porteremo anche a Bologna lo spettacolo Verona Caput Fasci, che chi ascolta questa radio credo conosca bene, perché è stato anche proposto dai microfoni di Radio Onda Rossa. Uno spettacolo diciamo di movimento insomma che nasce dal spettacolo teatrale in diretta, che è appunto a mio avviso un esperimento molto interessante, perché parte diciamo dall'esperienza vissuta di chi ha vissuto alcune lotte a Verona e dai testi insomma scritti per l'occasione, e l'ha messo insieme in uno spettacolo a Leo Germano. In questo caso verrà recitato da Elena Vanni e da Marianna De Fabrizio. Quindi allestiremo anche alcune mostre, per la verità porteremo là alcune mostre che sono già state presentate altrove. Una è Segnali di fascismo, diciamo che una mostra che cerca di mettere insieme dei segnali inquietanti sul presente che sottolinea alcune analogie con tristi passati, insomma, e altre. Poi il programma nel dettaglio non vorrei entrare a declinarlo, perché è veramente molto corposo. Comunque appunto esiste un sito del festival che è www.fest.fest-antifa.net, e la programmazione LGBT eccetera potete trovarla anche sul sito di Facciamo Breccia, che è www.facciamobreccia.org. Una cosa volevo chiederti, che avevamo già chiesto a Porpora la scorsa settimana, ma insomma ci sembra utile sentire quante più voci in assoluto. La locazione geografica del festival ha una sua valenza particolare in questo caso, nel senso Bologna è stata in passato città d'avanguardia per tutta una serie di movimenti e di realtà, e poi a un certo punto è stato anche città d'avanguardia purtroppo nella repressione, in un certo modo di vedere la città appunto a livello di decoro, di ordine pubblico. Ecco, che un festival così corposo e così plurale abbia luogo proprio a Bologna, insomma, è un caso, è una necessità, è una spia del fatto che comunque qualcosa si sta ricominciando a muovere? Come dobbiamo interpretarlo secondo te? Io non credo che sia un caso. Ora, io non vivo a Bologna, ma so insomma per le relazioni politiche che ho con compagni e compagne di quella città che gli ultimi anni sono stati anni molto pesanti per chi ha vissuto Bologna, proprio per questa politica fortemente repressiva che è stata introdotta da Guazzaloca, ma aumentata dal sindaco Cofferati, che l'ha resa veramente incisiva, insomma, sulla vita sociale di quella città. A questo si aggiunge anche che a Bologna si fa l'esperienza, insomma, adesso c'è un'esperienza recente che è quella del doversi contrapporre a un neofascismo presente in città, che è quello di Casa Pound, che è arrivato anche a Bologna, che ha una sede in centro e che per quella città è abbastanza una novità, almeno per questo tipo di organizzazioni. Il tutto si colloca, io non lo dimenticherei, in un clima assolutamente elettorale in quella città, nel senso che si vota per le... È proprio a ridosso delle elezioni, anzi. E credo che sia un interessante svincolarsi da un dibattito piuttosto asfissiante, che è anche quello che si dipana a Bologna, quindi cercare di riproporre alla città delle tematiche e delle pratiche politiche serie, costruttive, in un panorama in cui invece ovviamente vari partiti, partitelli del centro-sinistra, sinistra eccetera, parlano di tutt'altro e fanno a gara, insomma, chi è più securitario, rigido e poco aperto verso l'esterno, insomma. Io credo che anche questo possa essere un aspetto interessante, insomma, il fatto che è una sottrazione interessante, insomma, è il costruire, aprire uno spazio per un dibattito in un momento in cui spazi non ce ne sono, perché sono tutti occupati da questa pantomima della politica istituzionale e amministrativa. Assolutamente. Poi oltretutto nel caso specifico di Bologna c'è addirittura una tripartizione dei candidati, perché mi pare che ci sia tutta una serie di beghe interne che però non si esplica in una tripartizione dei contenuti, perché più o meno, insomma, sì. Ho dato una rapida occhiata a quelli che sono anche i programmi elettorali, così di massima, davvero poca, sì, poca cosa. Sì, più o meno credo che siano veramente molto simili, in una città che invece appunto ha maturato problemi molto grossi di vario tipo, ma anche proprio rispetto all'agibilità sociale prima ancora che politica, proprio delle strade, delle piazze per esempio di quella città, che sono di fatto state vietate alla cittadinanza. Per esempio non si manifesta più in centro a Bologna, questo ormai è un dato di fatto. È una città che ha sempre vissuto per strada, poi anzi che, diciamo, si faceva orgoglio del fatto di essere una città vitale. Sì, una città che è tuttora piena di studenti e studentesse, che quindi, insomma, ha una presenza giovanile e anche, insomma, una presenza per gli studenti fuori sede, che in genere è una presenza particolarmente vivace, insomma, proprio perché, insomma, uno trova uno spazio proprio quando, sì, sceglie una città per studiare, che adesso però è completamente asfaltata da questo nuovo clima. Va bene, senti, io chiuderei. Intanto, diciamo, hai giustamente detto che non era possibile dare una relazione completa sulle giornate, perché è veramente infinito. Io darei il sito per chiunque fosse interessato a avere con precisione contatti, informazioni e quant'altro, che è www.fest-antifa.net. E ti vorrei chiedere anche, diciamo, per quel che riguarda le problematiche pratiche, per chi vuole arrivare, fermarsi, insomma, come ci si è organizzati? Ma appunto il festival è in un parco, in un grande parco, dove è stato allestito un campeggio, e quindi, insomma, per chi è contento o contenta di campeggiare, basta, insomma, presentarsi, e c'è un punto informazione in cui verrà indicato lo spazio in cui questo può avvenire. Poi sta venendo il fresco, quindi. Sì, sì. Fortunatamente, perché io sono salita sulla scorsa settimana, era pressoché invivibile, e invece ora dice che è migliorata la cosa. Anzi, ieri sera ci hanno parlato di un grande temporale a cui è seguito uno splendido arcobaleno, il monsone tropicale che porterà un po' di fresco. E anzi, si chiede anche, vabbè, c'è una mail ovviamente a cui si può chiedere qualunque tipo di informazione, che è info@fest-antifa.net. C'è appunto una cucina che tutti i giorni cucinerà piatti tradizionali emiliani e vegetariani, si chiede anche a tutte e a tutti di dare la propria disponibilità per collaborare a un evento che è anche una grande prova, insomma, d'autogestione e di partecipazione, perché ovviamente tutti i settori sono autogestiti, quindi insomma si chiede con grande forza di dare qualche ora del proprio tempo nella collaborazione. Se poi si vogliono, insomma, indicazioni per altri luoghi dove dormire, appunto, basta mandare una mail. Il posto da raggiungere, insomma, è molto semplice, perché c'è un autobus che è il 27 dalla stazione. Se si va in auto si esce alla tangenziale numero 6, insomma, comunque è un posto in città, per cui non è difficile da raggiungere. Va benissimo, io ricordo ancora una volta che il festival comincia domani ma si conclude martedì sera. Sì, buon modo per utilizzare questo il ponte. No, anche perché io immagino che molti, anzi speriamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento parteciperanno alle varie iniziative che sono in corso nella nostra città, sia domani che dopodomani, però ecco. In ogni caso il festival, il 31, è ancora un buon momento per partire, insomma, senza perdendosi solo una piccola parte. Sì, ecco. Insomma, anche il 30 sera è rimasto ancora un treno notturno che arriva a Bologna la mattina, per cui si può utilizzare. Anzi, utilizziamolo fino a che non lo levano, perché esatto, lo leveranno di sicuro. Sì, perché sono o alta velocità o nulla, noi. Va bene, e io ti ringrazio, chiaramente risarai ai nostri microfoni poi la prossima settimana per raccontarci un po' com'è andata, ci risentiremo anche sicuramente lunedì mattina per fare un po' il punto della situazione. E niente, vi ricordo il sito www.fest-antifa.net. Noi concludiamo qui il nostro ultimo spazio redazionale della mattinata.